monotonia, troppa monotonia, KK, troppi controlli di radio, lei ci basta fare vedere, è buffonà, ma vai a vedere che tutto funziona bene, cambio, cambio. 4-10. Avanti. Cosa vuoi Gianluca, cosa vuoi? Eh? Chi è il figlio di coach? Di Gianfranco? Sì. Beh, parla io. Ciao, buongiorno, dimmi. Ciao, buongiorno. Ma dov'è? Lavoro. A lavoro, ancora lavorando sta. È l'una e mezza, ancora lavorando sta. Sarà a Fenguara. 4 arriva, se non è già arrivato. Perché non esce a luna? Infatti, dovrebbe essere già arrivato. Dovrebbe essere andato in moto stamattina. Già si poteva uscire in moto, però c'era un po' di commissione da fare, già l'hai vista. Allora siamo usciti in macchina stamattina presto. È buio, no, manco barricato, c'ho il collo che mi fa male, qua, sono bloccato 4 lì, c'ho il collo che c'ho questo dolore, chissà cosa mi ha raggiù il piede la sera, che è roba da cruzi. Ehi, intanto il tempo già è bello, un po' c'è caldo, un po' c'è freddo, poi la tramontana, buzzino, c'è poco bugni. La vecchiaia, dammi subito. Ciao Natali, ciao Claudio. Ciao lui. Non ho ragione. Lo so che la vecchiaia è carrogna. Vedi invecchiare, no? Beh. Questa pubblicità è come ti dici, meglio cambiare, ne? Eia. Gliel'ho detto a Natalino, le prese a mia sorella e le fa passare tutti i dolori. E non la vuole, no? La vuole perché è pelosa. Da Natalino, ti fai massaggi come Munge e ti fai massaggi. E allora che mi cuida la russa. Già la vuole poco bene questa sorella, già. Dice che non è brutta. È diverso, no? Non c'è detto ieri notte. Sta comprando tutte le cose, cioè aspetta. C'era Cavallino, ha detto che la vuole conoscere. Fagliela conoscere tu. Senza ombra di dubbio. Non mi viene neanche infarto. Esagerato. Immaginati che si chiama Maria Rosaria e noi la chiamiamo Mariangela, come la figlia di Fantuzzi. Sì, la poverina, ma giovane. 55 anni già. E allora beh, è più grande di Cavallino, per quello che non la vorrà. Sicuramente. Ma va bene per Natalino, va. Ieri notte mi sa da risare. Vai. Sì, abbiamo chiuso la luna di notte. La pallina di mani parava la padria. Ridendo, io. Sì, no. Chi c'era? Io, Claudio, Carlo Gualdero e Cavallino. Poi ci vuole poco a farlo ridere a Cavallino. Ma noi vanno tutta la sera qua, ci vuole essere. Non l'ho acceso poi, e poi mi sono coricata e non l'ho acceso. Ieri era Tour de Force. E allora? Ogni tanto bisogna anche farci due risate, sennò poi diventa troppo monotona la cosa. Gappa gappa. Oh. Non scegli avere questo barattolo. Sì, dopo devo andare a prendere a Franco, dobbiamo fare un paio di commissioni e poi ti telefono. Un cariello, non c'è. Era qua, volevo fare, non so dove è andato. Chiava del Rosmetro. Vai Dini a telefonare. Oh yeah, oh yeah. Daniele! Ciao Rita, mi sentita? Ciao Daniele. Oh, Natalino, te l'hai già detto quando sbadiglia? Mamma mia! Mi è ticcato a dirglielo a Cavallino che... Perché? Quando sbadiglia è peggio la tramontana, fa un vento allucinante. Cos'è, poverina, se ti sente lei? Vento freddo fa, o fossi un magnaghiaccio. Ciao!